2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, mi trovate su Facebook, su Twitter. Il nostro indirizzo di posta elettronica per comunicare con noi è 2024@radio24.it. In questa puntata parleremo di tecnologie e di treni, di disabili e anche di fibra ottica. Poi parleremo di e-commerce e di un fenomeno che probabilmente alcuni dei nostri ascoltatori conoscono perché ce ne siamo occupati, ma magari lo conoscono anche perché sono protagonisti di questo fenomeno, cioè di ad blocker, di quei software, di quelle applicazioni che servono per bloccare la pubblicità, che sono una piaga per l'industria editoriale, perché bloccando la pubblicità si bloccano i ricavi dell'industria editoriale, però sono un fenomeno di cui proprio gli editori dovrebbero tenere conto molto di più di quanto stanno facendo oggi. Iniziamo come sempre da alcune notizie in breve selezionate durante la settimana. Digital News. In 3 mesi hanno superato quota 50.000 i domini registrati .cloud. Quindi io potrei fare ad esempio enricopagliarini.cloud. Il primo paese per numero di registrazioni sono gli Stati Uniti col 23%, seguiti dall'Italia al 13% e poi Canada, Cina e Germania. Ricordiamo che la società responsabile per le registrazioni del .cloud è l'italiana Aruba. Per la prima volta Snapchat ha superato quota 150 milioni di utenti giornalieri, ma soprattutto la notizia è che per la prima volta supera Twitter, che è ferma a circa 140 milioni. Snapchat è uno dei servizi che sta crescendo maggiormente negli ultimi mesi ed è anche una delle aziende che raccolgono più soldi dai venture capital. L'ultimo round di investimenti ha un valore di 1,8 miliardi di dollari. Sono invece 3,5 i miliardi che il fondo sovrano dell'Arabia Saudita ha infilato in Uber, portando la raccolta a circa 11 miliardi di dollari. Uber ha accolto positivamente anche un'indicazione che è arrivata da Bruxelles questa settimana della Commissione europea, che ha detto che le piattaforme online di sharing economy, quindi Uber, Airbnb, eccetera, eccetera, potranno essere vietate dai governi nazionali in Europa soltanto come misura estrema. Queste sono linee guida non vincolanti, ma ovviamente possono essere di supporto alle decisioni dei governi. In Italia esiste una proposta di legge di iniziativa parlamentare per regolare la cosiddetta sharing economy e in modo particolare per i servizi di noleggio con conducente molto probabilmente verrà delegato il governo a prendere una decisione definitiva, ma si parla di tempi piuttosto lunghi, insomma parecchi mesi. Un'ultima notizia riguarda Salesforce, che ha annunciato che acquisirà per 2,8 miliardi di dollari Demandware, che è un software cloud-based specializzato nella gestione di siti e-commerce. A proposito di e-commerce, nel mondo in generale, ma soprattutto nelle due parti economicamente più frizzanti, Stati Uniti e Asia, in modo particolare in Cina, c'è una competizione crescente tra le piattaforme nate per fare e-commerce e tutti i distributori tradizionali che stanno vedendo questo fenomeno, che non è più un fenomeno, è una realtà piuttosto consolidata, ma sempre più come una minaccia, e cercano di reagire. Si sta parlando molto di quello che sta facendo o pensando di fare Walmart per reagire allo strapotere di Amazon, o comunque alla crescita molto forte di Amazon. Ma un po' in tutto il mondo distributori e i rivenditori di merci tradizionali stanno guardando all'e-commerce per cercare di reagire. A proposito di e-commerce e a proposito di Italia, compie 18 anni il commercio elettronico italiano, visto che il 3 giugno 1998 veniva acquistato il primo libro, o comunque avveniva il primo acquisto online con carta di credito in Italia su ibs.it. Il primo a fare l'acquisto, e questa potremmo dire che è una cosa un po' ridicola, non è stato un italiano, ma un americano di Fremont in California, che ha comprato una copia della concessione del telefono di Andrea Camilleri. Oppure era un italiano che abitava a Fremont, chi lo sa. Comunque la prima transazione dell'e-commerce italiana è stata avvenuta il 3 giugno. Allora, dopo 18 anni l'e-commerce italiano potremmo dire che è oramai un sistema maturo. Coloro che comprano online con frequenza almeno una volta al mese sono quasi 13 milioni, mentre salgono a quasi 19 milioni se si aggiungono anche quelli che comprano con minore frequenza. Allora, uno dei problemi che il settore deve affrontare è quello del momento della consegna. Quanti di voi avranno sperimentato questo problema? Quando arriva il corriere? Oppure faccio consegnare la merce ad un amico che è sempre in casa, alla mamma, alla zia, oppure in un negozio o presso l'ufficio? Questo è uno, insomma, la domanda di quando arrivi il pacco è uno dei problemi che devono essere affrontati. Alcuni servizi, soprattutto quelli che consegnano generi alimentari o in genere merce deperibile, propongono finestre di alcune ore, un'ora, due ore, tre ore, ma in generale lo sappiamo molto bene, i corrieri non danno un'indicazione precisa di quando arriva il pacco, non è che ti dicono alle 10:30 siamo a casa tua. Allora, la soluzione a questo problema, le soluzioni sono varie. Ci sono i locker, prima dei locker vennero inventati pick up point, cioè ti dico vai a ritirare nel tal negozio, però non è forse comodissimo, ma si sono anche moltiplicati questi punti di ritiro. Comunque i locker sono una soluzione interessante, sono armadietti presso i quali la merce viene consegnata, dove uno va a ritirarla quando vuole. Il bello degli locker è che uno ci può andare a qualsiasi ora del giorno o della notte, 24 ore su 24, va lì col codice o con un codice a barre e ritira il proprio pacco. Oppure ci sono servizi che fanno da punto di ritiro di terze parti, quindi non vai nel mio negozio affiliato, ma vai, che ne so, in un bar che è sempre aperto o comunque ha un orario di apertura molto, molto vasto, molto esteso. A Milano, sempre a proposito di soluzioni a questo problema, è appena partito Milkman, ne abbiamo parlato e sicuramente ne riparleremo, perché è un servizio che si basa molto sulla tecnologia, sulla statistica, sulla matematica. Allora, che cosa fa Milkman? Ritira la merce per conto nostro, quindi quando noi compriamo online diciamo che l'indirizzo di consegna è quello di Milkman, e poi Milkman la consegna a noi quando vogliamo noi. Cioè possiamo proprio indicare portami il pacco che ti è arrivato venerdì alle 17. Oppure ci sono vari esperimenti molto interessanti. La consegna della spesa in auto, un esperimento che è stato fatto in Germania, ma siamo appunto solo alla fase di test. Allora, le auto devono ovviamente essere connesse, collegate ad un'applicazione. Il corriere arriva, apre il baule dell'automobile e deposita la merce nel baule dell'automobile. Quindi quando uno va a ritirare la macchina dal parcheggio, dentro c'è la spesa fatta, acquistata online. Poi c'è una nuova sperimentazione che è in corso a Stoccolma. Allora, il corriere scandinavo Post Nord e la catena di supermercati ICA stanno testando in 20 appartamenti la consegna direttamente a casa. Allora, come funziona? Gli utenti devono sostituire il cilindro della serratura con un cilindro che si connette ad internet. Quello che viene utilizzato in questo esperimento costa 250 euro, ma di serrature connesse ne abbiamo già viste nelle varie fiere parecchie, quindi questa non è una novità, anche se effettivamente non è che sono tante le persone che hanno la serratura connessa. In questo modo il proprietario può aprire la casa quando il corriere arriva, e quindi è il momento della consegna. Il corriere sale le scale, va nell'appartamento, entra, deposita la spesa in casa o addirittura la sistema nel frigorifero. È un esperimento per risolvere un problema che è uno dei problemi più gravi per la crescita del commercio elettronico. Di questo riparleremo, perché è un tema sicuramente molto interessante. Adesso parliamo di treni. Allora, l'innovazione nel sistema ferroviario non è sicuramente veloce come quella di altri argomenti di cui parliamo del mondo ICT, ma ci sono anche motivi molto solidi. per giustificare che appunto non si innova così velocemente, beh, il primo è quello della regolamentazione. Questi sono servizi fortemente regolamentati anche per garantire un margine di sicurezza molto elevato, e del resto le ferrovie sono tra i sistemi, se non il sistema di trasporto più sicuro. Poi c'è anche un problema di investimenti. Gli investimenti sono così elevati, se pensiamo che questa settimana è stata inaugurata una galleria e ci sono impiegati 17 anni per fare questa galleria, beh, insomma, stiamo parlando di infrastrutture che richiedono appunto investimenti molto elevati e tempi di realizzazione molto lunghi, per cui gli standard tecnologici non è che possono essere cambiati un anno per l'altro. Però l'orizzonte è un orizzonte di 10, 20, 30 anni. Questa settimana se ne è parlato a Milano al World Congress on Railway Research, che aveva come obiettivo, come orizzonte, il 2050. E sicuramente le cose più affascinanti di cui si è parlato sono sistemi alternativi alla ferrovia tradizionale, come il Maglev, cioè il treno a lievitazione magnetica, di cui si parla da tantissimi, direi ormai decenni. Poco si è visto, l'unico che è in funzione, in esercizio, è tra l'aeroporto e la città di Shanghai, una struttura che arriva fino a 430 km all'ora, che però quando va a quella velocità uno ogni tanto si domanda: ma siamo sicuri? E comunque i giapponesi, che sono quelli che stanno investendo in più, hanno una ferrovia di test in esercizio. Loro pensano di costruire la prima rete a lievitazione magnetica, prima ferrovia a lievitazione magnetica ad uso commerciale, entro la fine di questo decennio. Vedremo poi se sarà così. E poi si è parlato ovviamente di una novità di un paio di anni fa, diciamo, un'idea che è nata in California, sempre dalla mente di Elon Musk, Hyperloop, questo tubo dove viene creato il vuoto, e all'interno di questo tubo vengono sparati dei, chiamiamoli, vagoni, per delle capsule dove ci sono alcune persone, alcuni passeggeri. Essendoci il vuoto si possono raggiungere velocità di alcune centinaia di chilometri all'ora. Ci sono già dei test in corso nel deserto del Nevada, vedremo se questa infrastruttura verrà realizzata. Dubito che verrà realizzata nel giro dei prossimi 20-30 anni in Europa, anche per problemi orografici. Qui ci sono montagne, colline, insomma un po' un caos. Venendo e parlando invece di tecnologie molto più vicine a noi, che cosa sta cambiando sui treni, sulle infrastrutture e anche sui convogli? Ne ho parlato questa settimana con Marco Caposciutti, che è il direttore tecnico di Trenitalia. E siamo partiti da uno dei temi di cui si discute molto spesso ultimamente in un altro sistema di trasporto, quello dell'automobile, cioè la guida autonoma. Che cosa si sta facendo, che cosa si sta pensando nel mondo dei treni, dove apparentemente le cose sembrano molto più facili? Ma anche nel settore ferroviario si sta chiaramente pensando alla guida automatica, al cosiddetto ATO, Automatic Train Operation. Nel settore ferroviario è sicuramente più facile la guida automatica rispetto al settore stradale, perché la ferrovia è di per sé stessa guida vincolata, quindi ha solo un grado di libertà. Pensiamo che nelle metropolitane già è una realtà la guida automatica. Nel ferroviario non è stato ancora fatto per vari motivi. Non certo per motivi tecnici, sicuramente per motivi legati alla gestione del personale, perché senza macchinista vuol dire riduzione del personale. Per motivi anche legati a un concetto di sicurezza che è sicuramente diverso rispetto ad altri settori, ma come si è visto anche a questo congresso è inevitabile che si vada verso questa innovazione se si vuole incrementare l'efficienza e la capacità del trasporto ferroviario. Ricordiamoci che il settore ferroviario ha un vantaggio rispetto alle metropolitane: comunque rimarrebbe nella parte veicoli il capotreno o un assistente che può comunque assistere i passeggeri e in caso di emergenza può intervenire, mentre nella metropolitana non c'è nessuno. C'è già qualcuno che sta facendo delle sperimentazioni su questo tema? Non mi risulta che ci siano sperimentazioni in corso, però mi risulta che ci siano sistemi di segnalamento che si interfacciano con la trazione che sono stati sviluppati già in questo modo. e comunque penso che dal punto di vista tecnico sia un'innovazione assolutamente alla portata. Poi dobbiamo pensare a come gestire altri aspetti, per esempio l'arrivo in stazione, per esempio le movimentazioni, però ritengo che siano tutti aspetti che con una forte volontà possono essere visti. Senta, prendo spunto sempre da altri settori che riempiono le, mi verrebbe da dire, le pagine dei giornali, ma a questo punto i siti internet e le trasmissioni radiofoniche, visto che siamo alla radio. Big data e analisi dei dati, c'è un'infrastruttura e dei treni che viaggiano tutto il giorno avanti e indietro, che possono, mi immagino che già oggi lo facciano, raccogliere un sacco di dati. Beh, innanzitutto, che tipo di dati raccogliete, come li raccogliete, per farci che cosa? Allora, i dati vengono raccolti dai treni tramite dei sensori e sostanzialmente si misurano parametri sullo stato dei treni, misurando una serie di grandezze, tipo temperature, pressioni e quant'altro. I dati servono sostanzialmente per poter meglio gestire il treno, quindi per poter fare la manutenzione con un sistema di manutenzione on condition. Quindi avere i dati significa andare a mirare la manutenzione e farla un momento prima che il pezzo si rompa e non a scadenze fisse, a tempo o a chilometro. I dati poi possono servire per fare la diagnostica dell'infrastruttura, quindi ad esempio per individuare i punti dell'infrastruttura che hanno dei problemi, avvallamenti, dei problemi sui conduttori aerea e quant'altro. E quindi in questo senso possiamo dire che il treno può essere il miglior modo per poter diagnosticare l'infrastruttura. In generale ogni mezzo di trasporto può essere il miglior modo e più efficace per poter diagnosticare l'infrastruttura. Queste cose che lei ci ha citato si fanno già o sono una prospettiva? Queste cose si fanno in piccola parte, però sicuramente in prospettiva si faranno sempre di più. Ad esempio in Trenitalia stiamo andando avanti concretamente per fare questo sistema sui nuovi treni alta velocità e TR1000, che sono dotati già di sensori, ma che sono dotati anche di un software specifico e di una serie di algoritmi per analizzare i dati e per dare questi dati all'infrastruttura. In un futuro quindi vediamo come il treno fornisce questo servizio all'infrastruttura, quindi è l'impresa ferroviaria che fornisce un servizio di diagnostica all'infrastruttura e perché no può avere uno sconto sul pedaggio in funzione dei dati che trasmette. Questo è un aspetto interessante perché ricordiamo che la rete ferroviaria fa parte di una società che gestisce per tutti i gestori, per tutti gli operatori di treni i binari, banalmente le linee insomma, elettriche che servono per fare la propulsione. Tutte le altre società, in Italia ce ne sono due per l'alta velocità, altre per il trasporto locale, sono clienti di questa infrastruttura. Quindi lei ci sta dicendo che, facendo un paragone sull'automobile, tutte le automobili potrebbero raccogliere dati, fornire i dati ai municipi, all'ANAS, eccetera, eccetera, e dire guarda che là c'è una buca, facendo certo, le dovute proporzioni. Certo, il paragone direi che è calzante. Ricordiamoci che in Italia ad oggi c'è una infrastruttura e tante società, imprese ferroviarie, società di trasporto. Lei ha citato due imprese nell'alta velocità, ma ricordiamoci che nel merci vi sono circa 30 società che stanno operando e sul trasporto regionale vi sono diverse società. Quindi potrebbe essere uno standard che dà l'infrastruttura proprio quello di raccogliere i dati e dargli all'infrastruttura per una migliore diagnostica. Per quanto riguarda i dati, occorre aggiungere anche un'altra cosa: i dati servono anche all'impresa, servono anche per migliorare l'efficienza dei treni dell'impresa ferroviaria, e Trenitalia in questo ha promosso un progetto di investimento importante, siamo i primi in Europa, per dotarsi di un sistema big data dove vengono fatti confluire tutti i dati diagnostici raccolti da tutti i treni. Questo sistema, tramite degli algoritmi, si danno delle regole di manutenzione per i manutentori in modo tale da andare a fare la cosiddetta manutenzione on condition. Questo sistema si chiama con un acronimo DMMS, Dynamic Maintenance Management System. È un sistema che viene sviluppato da SAP dal punto di vista informatico, quindi ci siamo affidati a una primaria impresa mondiale in questo settore, ma il cuore del sistema, e cioè le regole che vengono fatte per poter associare i dati alle regole di manutenzione, è un sistema che è sviluppato all'interno di Trenitalia. Su questo sistema stiamo andando avanti, abbiamo fatto già due applicazioni negli anni scorsi su due particolari flotte, le locomotive 464 di trasporto regionale e gli ETR 500 alta velocità, e il nostro programma è quello di arrivare a completare tutta la flotta entro il 2018. Quindi i dati che servono non solo per l'infrastruttura ma anche per migliorare l'efficienza dell'impresa ferroviaria. Le faccio una domanda su un tema di cui si è parlato oggi in un altro ambito: la capacità di far transitare un numero di treni maggiore, quindi di aumentare la densità dei treni soprattutto in ambito urbano. Questo progetto come funziona, detto in modo molto semplice, e quando potremo vederlo? Questo progetto parte dal presupposto che raddoppiare o aumentare l'infrastruttura è estremamente critico e lungo e costoso, e quindi dobbiamo cercare di far passare più treni nell'infrastruttura attuale. Il progetto si basa quindi su una modifica del sistema di segnalamento e si basa sul cosiddetto segnalamento ERTMS High Density. Sostanzialmente si riescono a mettere più treni negli stessi binari migliorando la loro gestione e quindi facendo in modo che vadano tutti alla stessa velocità, siano omotachici e si riducano le distanze tra un treno e l'altro, per arrivare, come ha detto l'ingegner Gentile di RFI, ad avere un treno ogni 3 minuti. Il progetto lato infrastruttura è già partito, i primi nodi che saranno attrezzati saranno quelli di Roma, Milano e Firenze. Parallelamente partirà anche l'impresa ferroviaria Trenitalia e tutte le altre imprese per attrezzare anche i rotabili. L'attrezzaggio dei rotabili è sicuramente più semplice perché tutti i rotabili già oggi hanno il sistema di segnalamento chiamato SCMT. Si tratta di aggiungere la parte RTMS, quindi si sfruttano già una serie di apparati e di sensori che sono a bordo e si aggiunge solo la parte radio e la parte specifica RTMS. Le faccio un'ultima domanda, anche perché tra poco lei ha una riunione con i giapponesi, quindi bisogna essere precisi, perfetti al secondo. Dal punto di vista del consumatore, quindi del passeggero, che per voi è appunto il passeggero, grazie alla tecnologia che cosa potrete dare in termini di informazioni, comfort, intrattenimento, eccetera eccetera? Ma sicuramente il nostro obiettivo è quello di migliorare il servizio per il consumatore. Noi vogliamo andare sempre di più verso un sistema di trasporto integrato, quindi offrire al viaggiatore connessione da punto a punto, quindi trasporto ferroviario ma anche connessione con altri mezzi di trasporto, che possono essere l'autobus, la metropolitana, la bicicletta, qualunque altro. Quindi la tecnologia può aiutare a realizzare quelle connessioni, ad esempio sui biglietti, ad esempio sulle tariffe, ad esempio sulle informazioni, sulle coincidenze, che oggi spesso fanno perdere tempo. È inutile andare da Roma a Milano in 2 ore e 55 se poi perdiamo mezz'ora per poter andare a prendere l'autobus che deve portarci da qualche parte. Quindi in questo la tecnologia e la digitalizzazione sicuramente è nostro alleato. E questa prospettiva di cui ci parlava Marco Caposciutti, che è il direttore tecnico di Trenitalia, la vediamo già in alcune applicazioni che ci forniscono informazioni integrando dati da diverse fonti: quando arriva il treno, quando arriva l'autobus, magari mi fanno prenotare il taxi, cioè ci sono già alcune applicazioni di questo genere che integrano questi dati. Ovviamente la sfida, il prossimo passo per gli operatori del trasporto in generale è quella non solo di fornire informazioni ma anche quella di integrare ad esempio i sistemi tariffari oppure proprio le procedure nell'acquisto del biglietto. Io acquisto un tragitto da A a B e, indipendentemente dal fatto che in mezzo ad A e a B ci sia il treno, l'autobus o qualsiasi altra cosa, magari il biglietto è unico ed è integrato. Non è facilissimo ma non è nemmeno difficilissimo. Ovviamente pensando al sistema dei treni uno pensa anche al problema annoso dei ritardi. Tutte queste tecnologie e anche non ultima quella a cui abbiamo accennato, che aumenterà la densità dei treni, la capacità di avere un numero maggiore di treni soprattutto in ambito urbano, quindi un treno ogni pochi minuti, tutte queste tecnologie contribuiranno anche a ridurre il numero di i minuti di ritardi, avvicinandolo magari ai secondi come succede in Giappone. Io sono convinto che ci sia anche un problema di orari dei treni che sono sbagliati, perché se tutti i treni su una certa tratta quasi tutti i giorni hanno un certo numero di minuti di ritardo, cambia l'orario dei treni e automaticamente tutto torna in ordine. Poi ci hanno detto sia Trenitalia che Rete Ferroviaria Italiana che i due fattori principali che determinano i ritardi sono: uno, la manutenzione e quindi i conseguenti guasti alla rete o al materiale rotabile, e l'altro, e devo dire che su questo l'opera di educazione dovrebbe essere fatta, ma è molto complicata, l'altro sono i passeggeri che a volte non salgono nei tempi dovuti. Ci sono passeggeri che scendono e fumano anche se magari il treno si ferma per un minuto, quindi bisogna farli risalire sul treno. Insomma, ovviamente l'indisciplina dei passeggeri è anche un elemento in alcuni casi, però insomma, mi sembra che la tecnologia possa fare molto, e anche conseguentemente l'organizzazione di tutto il sistema ferroviario. Chiudiamo questa prima parte di 2024, riprendiamo tra poco. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24. Riprendiamo questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, mi trovate su Facebook, su Twitter, il nostro indirizzo di posta elettronica se volete comunicare con noi è 2024, scritto in cifra, 2024 e radio24.it. Dunque, ovviamente, se parliamo di tecnologia e di treni, un'altra cosa che viene alla mente è il wifi sui treni ad alta velocità. Anche di questo ho parlato con le persone di Trenitalia, molto competenti. Ovviamente il problema è noto, il fatto che non sempre funzioni, ma qui i problemi non sono solo dovuti al vagone, all'infrastruttura che sta a bordo del treno, ma anche all'infrastruttura che sta fuori. Innanzitutto il sistema di telefonia mobile non è stato progettato per intercettarlo e per comunicare a 300 km all'ora, e poi anche la copertura su alcune tratte ferroviarie non è eccezionale. Comunque si sta lavorando su questo, ci hanno promesso che nel giro di qualche tempo, non si sa bene quanto tempo, questo problema magari non viene risolto al 100%, però ci sarà uno step evolutivo molto interessante. Vi terremo informati, come si dice in questi casi. Adesso parliamo di tecnologia e di disabili, perché tutto quello che sta succedendo, che commentiamo spesso a 2024, ha un effetto collaterale, potremmo dire, anche sul mondo dei disabili. Saluto Luca Spaziani, che ha scritto Digitabili, che è un libro che si occupa di innovazione tecnologica e di disabilità. Benvenuto a 2024. Grazie. Allora Luca, tu hai scritto un libro che si intitola Digitabili, prendendo spunto dai disabili, e ci hai infilato questa parola digital, perché parti da una considerazione molto interessante che vorrei che tu ci raccontassi, cioè che le tecnologie che sono state sviluppate negli ultimi tempi, soprattutto quelle più vicine al mondo digital, quindi degli smartphone, le app, eccetera, eccetera, hanno come effetto collaterale quello di favorire molto, e tu poi ce lo racconterai, chi ha disabilità. Sì, da molto tempo la tecnologia è di supporto alle persone con disabilità, e possiamo dire che le persone con disabilità utilizzano il digitale forse da ancora prima che si diffondesse in massa. Penso ad esempio all'utilizzo dei personal computer, che era già diffuso appunto quando non era ancora nelle case di tutti, però era molto facile trovarlo nella casa appunto di una persona con un handicap, come anche dispositivi per la gestione dell'abitazione, e quindi il settore della domotica, che adesso sta un po' esplodendo come mega trend, è già da tempo appunto che le persone con disabilità si avvalgono di supporti di questo tipo. La cosa interessante però che sta accadendo ultimamente è che la tecnologia sta rivestendo un ruolo sempre più abilitante, da qui anche lo spunto per il titolo del libro, Digitabili, cioè sta rendendo le persone con disabilità sempre più idonee, potremmo dire, sempre più capaci di fare quello che fanno tutti. Sì, e di farlo soprattutto in autonomia. Sì. Perché tante azioni che si possono compiere nel mondo fisico con l'aiuto però di qualcuno, nel mondo digitale possono essere messe in atto completamente in modo autonomo, e questo ha dei vantaggi enormi dal punto di vista dell'inclusione sociale, dell'autonomia e della propria anche emancipazione rispetto a una situazione di handicap. Sì. Allora, hai detto bene, da sempre la tecnologia è il più grande aiuto per chi ha un qualche tipo di disabilità, però uno dei problemi fino a qualche anno fa, e immagino in alcuni settori, in alcuni ambiti ancora oggi, è che il mercato dei disabili è non un mercato di massa come quello di tutta la popolazione, e quindi gli investimenti che le aziende facevano, fanno per trovare nuovi sistemi per aiutare i disabili sono o investimenti molto bassi, oppure addirittura non vengono fatti questi investimenti. Invece tu ci stai dicendo che oggi le tecnologie che vengono sviluppate, prendiamo l'esempio dello smartphone, perché poi sullo smartphone parleremo e faremo alcuni esempi, che vengono sviluppate per tutti, hanno come effetto collaterale questo, che è fantastico. Sì, questo diciamo è quello un po' che sta accadendo ultimamente, e che accadrà, a mio modo di vedere, sempre di più in futuro. Cioè la tecnologia, diciamo, quasi spontaneamente sta venendo incontro alle esigenze dei disabili, e quindi con innovazioni messe a disposizione di tutti, e delle quali i disabili sono forse i primi beneficiari. Sì. L'esempio che facevo prima legato alla domotica è abbastanza eloquente, perché pensiamo allo sviluppo enorme che sta interessando il mondo dell'Internet of Things e delle smart home, e a quali benefici può portare a chi ha difficoltà di vario tipo, difficoltà sensoriali, difficoltà motorie, o comunque nella gestione della propria abitazione, degli elettrodomestici e dei dispositivi di casa. Certo. L'esempio dello smartphone è assolutamente calzante, perché se pensiamo che sono state raggruppate all'interno di un apparecchio che teniamo in tasca tantissime funzioni, molte delle quali fino a poco tempo fa erano diciamo espletabili solo nel mondo fisico, o comunque se lo erano anche nel campo digitale necessitavano comunque di diversi dispositivi, di diversi sistemi operativi, piattaforme e quant'altro. Il fatto di aver raccolto così tante funzioni all'interno di un unico apparecchio fa sì che questo dispositivo abbia una versatilità enorme, per cui si presti all'utilizzo anche di persone con diverso tipo di disabilità, naturalmente con degli accorgimenti che alcune aziende hanno avuto già da tempo. Faccio l'esempio della Apple, e altre case produttrici stanno manifestando pian piano altrettanta sensibilità nei confronti di queste necessità. Sì. Sì. Sì, di questa evoluzione anche. Sì. Senti, allora facciamo subito alcuni esempi. Quindi ti chiedo di raccontarci, ad esempio, come tu hai scritto il libro. Tu sei cieco dalla nascita. Sì. E come hai scritto? Forse sulla scrittura c'è una vasta scelta, giusto? Sì, la cosa interessante è proprio questa, che ci sono diverse tante modalità tra cui scegliere per interagire con un dispositivo tecnologico come un PC o uno smartphone, e questo è molto importante perché le esigenze delle persone con disabilità sono diversissime, quindi l'importante è che ci sia sempre modo di scegliere. Io personalmente utilizzo un personal computer con sistema Windows, sul quale è installato un software che si chiama Screen Reader, cioè lettore di schermo, che permette di interagire con il PC fondamentalmente in tre modi: attraverso una sintesi vocale, che legge quindi il contenuto delle schermate, attraverso un display Braille, che è una riga che diciamo traduce in alfabeto Braille il testo presente sullo schermo, oppure con una modalità di video ingrandimento, che è quella che viene utilizzata dalle persone ipovedenti. Sì. E questo per leggere. Per quanto riguarda la scrittura, si può scegliere di utilizzare la tastiera del PC. Moltissime tastiere hanno sulla lettera F e sulla lettera J dei piccoli rilievi. Mm-hmm. E quindi, partendo da queste due lettere, poi esplorando man mano la tastiera, con un po' di pratica si può, diciamo, imparare a memoria la disposizione dei tasti e acquisire anche una certa velocità. Sì. Ma si può anche scegliere di scrivere con una tastiera Braille, che quindi ha gli otto punti, gli otto tasti corrispondenti agli otto punti dell'alfabeto Braille, Oppure si può scegliere di dettare il testo attraverso i numerosi ormai software che permettono, che consentono questo sistema di interfaccia, di interazione. E tra l'altro che funzionano molto bene, sì, ormai. Sì, si sono stati migliorati molto e hanno raggiunto un ottimo livello di efficienza. Anche qui perché si è andati a, diciamo, sono andati ad interessare questi software una fetta di pubblico molto più vasta, sì, di quella che potevano essere le persone con disabilità. Sì, ma io dico spesso che lo smartphone è diventato ormai il telecomando della nostra vita, nel senso che facciamo moltissime cose con lo smartphone. Quindi se tu riesci ad interagire, mi sembra di capire che lo riesci a fare molto bene, con un'applicazione puoi fare un sacco di cose. Sì, il mondo degli smartphone è appunto forse per certi aspetti ancora più accessibile del PC, perché le interfacce delle applicazioni sono generalmente un po' più leggere, un po' più intuitive rispetto a quelle di siti che magari contengono animazioni, tanti elementi multimediali che li rendono poco gestibili. Invece l'interfaccia di un'app è più, appunto, più fresca, più intuitiva, con meno elementi. E chiaramente questo apre la possibilità di utilizzare delle app, apre le porte a moltissime opportunità che vanno dal poter gestire il proprio denaro in autonomia attraverso l'home banking, alla possibilità di fare acquisti online sulle più svariate piattaforme di comune utilizzo, da Amazon, eBay e quant'altro, alla possibilità di ordinarsi da mangiare e di prenotare praticamente qualsiasi cosa, e sì, compresi per biglietti, te, aerei, treni e quant'altro. Certo, e per te questo è, diciamo, fondamentale. Cioè, mentre per una persona che magari può uscire, andare in banca, esatto, cioè un'alternativa, tu dici, questo per me è veramente un cambiamento di vita molto importante. Sì, ciò che per tutti è comodo, io dico, per le persone disabili diventa essenziale, fondamentale, di vitale importanza, perché è ciò che mette loro nelle condizioni di essere veramente autonomi. Nel mondo fisico, appunto, potrebbero fare queste cose, ma con l'aiuto di qualcun altro, grazie al digitale le possono fare, e solo grazie al digitale, e solo in questa modalità, possono farli in piena autonomia, e quindi essere in qualche modo protagonisti della propria vita, cioè di ciò che li riguarda personalmente. Pensiamo appunto al denaro, che forse, insomma, è uno degli esempi di una cosa abbastanza privata che in genere si gestisce con un po' di riservatezza, e poterlo gestire in autonomia sicuramente è un grandissimo vantaggio. Poi c'è anche tutto l'ambito del rapporto con la pubblica amministrazione, e anche qui la possibilità di richiedere certificati online, di poter utilizzare la PEC piuttosto, sì, che la firma digitale, pagare le bollette, sono sempre soldi, eh sì, mi evita, sì, sì. Mi evita di dover andare in comune, fare la fila, cosa che è scomoda per tutti, per me fondamentalmente sarebbe impossibile. Qui a questo si lega un po' il discorso che purtroppo questi benefici non sono uniformi ed equamente distribuiti, perché chiaramente sono legati alle caratteristiche del territorio e del contesto in cui si vive. La tecnologia è abilitante, ma nella misura in cui il territorio in cui si abita, o comunque in cui si passa la maggior parte del tempo, la utilizza e ne fa un suo tratto caratteristico. E addirittura, certo, perché tu dici non tutti i luoghi hanno gli stessi servizi online. Soprattutto, no, se parliamo di pubblica amministrazione. Sì, assolutamente. Pubblica amministrazione, ma anche esercizi commerciali, piuttosto che servizi per la mobilità. Certo. Da questo punto di vista, appunto problemi di connettività, che ancora purtroppo nel nostro, certo, paese, certo, da qualche, certo, parte sussistono. Queste condizioni qui chiaramente incidono addirittura, lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ed è stato poi anche ripreso dall'ONU nella dichiarazione dei diritti delle persone con disabilità, incidono addirittura sulla misura stessa della disabilità. Chi ha un'invalidità ha un verbale su cui è riportata una percentuale ben precisa di invalidità, ma quella è soltanto, diciamo così, un'indicazione di carattere sanitario. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto: se nell'ambiente circostante ci sono dei fattori abilitanti, quella percentuale può scendere. Se l'ambiente invece è caratterizzato da ostacoli di vario tipo, uno di questi è la scarsità di utilizzo della tecnologia, quella percentuale può salire. Per cui da questo punto di vista, diciamo, siamo un po' tutti così coinvolti. Siamo tutti dalla stessa parte, sì. Però dici, per chi ha una disabilità sì. Ancora di più. Sì, siamo tutti coinvolti nella misura della disabilità di una persona, sì, questo sì. È abbastanza... Senti, allora, è molto chiaro quello che tu dici e ci hai detto sui servizi online, mm-hmm. perché appunto se uno non si deve muovere può fare tutto dal computer oppure attraverso un'applicazione sì. Può fare tante cose, chiaramente quella è una comodità ed è facile comprendere il vantaggio. Se invece tu ti devi muovere oppure vuoi muoverti e sì. Vuoi uscire e andare per in giro per la città oppure devi andare in un ufficio, cosa ti viene in aiuto? Ecco, qui diciamo che c'è un po' il gap, no? tra quello che si può fare online, poi si esce di casa e si trovano barriere architettoniche di ogni tipo, difficoltà di vario genere, anche difficoltà, se vogliamo, culturali, se possiamo dire così, di interazione comunque, ecco, con gli altri. E da questo punto di vista la tecnologia ci viene, ci verrà, diciamo, sempre più incontro, mettendo a disposizione dei dispositivi che possono un po' aiutare le persone con disabilità a muoversi autonomamente. Spiegaci cosa. Pensiamo, sì, sono dispositivi basati su, ad esempio, sulla realtà aumentata, che sappiamo per definizione è una modalità grazie alla quale si riescono ad avere maggiori informazioni su quello che abbiamo intorno rispetto a quello che vediamo. Sì. Questo per una persona che non vede porta un vantaggio abbastanza intuitivo e notevole, perché se io ho un dispositivo che mi racconta, che mi spiega, che mi illustra quello che ho intorno a me, che può essere un occhiale, può essere una cuffia dotata di telecamere, può essere un caschetto, naturalmente costruito appositamente e pensato, progettato per questo utilizzo specifico, e questo mi può essere d'aiuto per muovermi da solo. Per cui, ad esempio, si stanno sviluppando dispositivi anche in Italia, si stanno sviluppando apparecchi in grado di riconoscere quando è il momento di attraversare, di distinguere le insegne, di darmi informazioni sugli edifici che ho intorno, sul colore del semaforo, su eventuali ostacoli a cui mi sto avvicinando. Ci sono già? Qualcosa c'è già e qualcosa, diciamo, è ancora in via sperimentale. Ci sono, diciamo, la parte un po' più evoluta è quella legata al riconoscimento di scritte, di insegne, perché chiaramente c'è la tecnologia OCR, sì. Che è già abbastanza matura, già abbastanza evoluta. Sì, di riconoscimento delle scritte, sì. E anche delle immagini, sì. Certo. Ci sono chiaramente delle difficoltà ancora da superare, che riguardano ad esempio il consumo di energia di questi dispositivi, perché chiaramente parliamo ad esempio di telecamere. Questo è però in generale. Sì, sì, che telecamere appunto, che io magari faccio, non so, un tragitto di un quarto d'ora a piedi, queste telecamere devono essere costantemente accese, puntate, certo. Intorno a me. E quindi chiaramente deve esserci una batteria potente. Senti, a proposito di riconoscimento delle immagini, sì. Tu che cosa usi? Che ti racconta quello che vedi, magari quello che puoi vedere sul computer, sullo smartphone? Allora, in quest'ambito devo dire che le applicazioni, ancora una volta, per smartphone hanno permesso di fare dei passi in avanti notevoli. Abbiamo accennato poco fa all'OCR, ma l'OCR riguarda soltanto i caratteri testuali. Sì. Per quanto riguarda le immagini, ci sono, diciamo, fondamentalmente due tecnologie che aiutano molto. Da un lato c'è, e questo dipende dall'uomo, diciamo, da chi progetta un sito o piuttosto che una pagina di un social e quant'altro, c'è la possibilità di abbinare a ciascuna immagine un cosiddetto testo alternativo, che è poi il testo che vanno ad intercettare tutti i programmi di lettura dello schermo, sia di computer che di smartphone, e quindi se chi inserisce l'immagine ha l'accortezza di inserire questo testo fa un grande favore alle persone non vedenti, ad esempio, perché quanto è diffusa questa cosa? È mai abbastanza, nel senso che chiaramente sarebbe bello che un numero sempre maggiore di immagini avesse questo tipo di etichettatura. Quindi ci stai dicendo, sì. Che ancora la tecnologia, sì. non è in grado di comprendere, cioè se c'è una fotografia con una montagna, sì, il software non lo capisce. Ecco, l'altro, appunto, infatti dicevo, l'altro trend che sta prendendo piede proprio in quest'ultimo periodo e che sarà un po' il futuro è il riconoscimento automatico del contenuto di un'immagine. Ah. È fatto attraverso chiaramente banche dati che contengono migliaia e migliaia di campioni, anche di pezzi di immagine a cui viene associata una didascalia. Ci sono dei software in grado di associare, anche qui parliamo chiaramente di intelligenza artificiale e di big data, sì, software che consentono di associare a quel pezzettino di immagine quella determinata didascalia. E quindi se io ad esempio fotografo un paesaggio, ci sono delle applicazioni che mi dicono appunto paesaggio con cielo azzurro e tre alberi a sinistra. Sì. E sono applicazioni abbastanza diffuse. Una tra l'altro è stata sperimentata da ragazzi anche italiani, si chiama iPoly Vision, e ecco, questo è un po', diciamo, il trend. Qualcosa di simile sta iniziando a farlo anche Facebook, che ha lanciato questa cosa circa un mesetto fa, diciamo in pompa magna, perché chiaramente è un'innovazione che va un po' che fa anche effetto, ecco. Beh certo, è molto affascinante, sì, certo punto. Perché tu, il social queste... network che utilizza le immagini per eccellenza, no? C'è un tratto, certo, caratterizzante di Facebook, l'immagine si muove in questo settore, chiaramente fa notizia. E anche qua, ecco, è sicuramente un segnale di una sensibilità che piano piano anche gli over the top, così le aziende, le grandi aziende, stanno pian piano acquisendo nei confronti di queste tematiche con notevoli vantaggi. Sì. Tu ovviamente di queste tecnologie scrivi sul libro che abbiamo citato, Digitabili, e fai anche i nomi, giusto? Sì, faccio alcuni esempi. Il libro è uscito a dicembre e già ci sono state delle innovazioni rispetto che ti costringono a cambiarlo ormai. Sì, dovrò, sì. Senti, guardando un po' più in là nel tempo, sì, perché queste cose che ci hai citato sono o già disponibili sul mercato o comunque in fase di test e arriveranno presto sul mercato. Sì. Noi recentemente ci siamo sentiti per parlare di veicoli a guida autonoma, che sono un sogno fantastico per tutti, ma immagino soprattutto per chi non vede. La macchina che guida da sola è meravigliosa. Questo, per quanto mi riguarda, è personalmente un sogno che a questo punto, da quello che capisco, potrebbe anche trasformarsi in realtà. Eh sì, perché visto che sei giovane, per cui, c'hai tempo. Per cui sì, magari la prossima intervista la faremo, diciamo, con me che arrivo con l'auto più autonoma qui sotto il sole 24 visto ore. Visto che dicono che passano 10-15 anni, magari ne facciamo una anche prima di, con qualche cosa di diverso. Comunque è sicuramente il trend, diciamo che Google ha un po' cavalcato questo trend già nel 2012, ha diffuso un video in cui si vede un non vedente che testa la Google Car, e sicuramente sarebbe l'innovazione principale. Teniamo conto però che siamo ancora abbastanza indietro, sì, perché sì, sì, le auto a guida autonoma ancora presuppongono molto comunque la presenza di un passeggero, no? La presenza umana nel caso in cui qualcosa non vada nel verso giusto, e poi ci vorrebbe comunque un'interfaccia che sia accessibile alle persone, certo, non vedenti, per cui sicuramente riconoscimenti vocali e suoni, eccetera. Suoni, eccetera. Sì, assolutamente. Per cui... Certo, certo. A proposito di suoni e di audio, così concludiamo, allora, la radio è perfetta. Sì, perché è una tua compagna fantastica. Sì. Però da questo punto di vista stanno succedendo molte cose, perché assieme alla radio, una delle espressioni più nuove della radio è il podcast e lo streaming. Sì. E da questo punto di vista devo dire che il mondo dei contenuti si è popolato molto. Sì, direi in generale contenuti audio, e avete parlato giusto un paio di settimane fa ad esempio di Audible, e ci sono anche appunto altri esempi. C'è il lavoro che sta facendo Amazon sui propri lettori, che ha appunto inserito un dispositivo vocale per la lettura degli ebook, e c'è sicuramente tantissimo fermento per quanto riguarda l'audio, ma io direi che in generale questa è un'ottima cosa, perché amplia le possibilità di scelta, di confronto, e rende di fatto i disabili dei consumatori, diciamo, normali, che hanno la possibilità di scegliere, di confrontare, di recensire un servizio piuttosto che un altro, di cambiare quando vogliono, quando ritengono che uno non vada più bene, si abbona ad un altro. Quindi l'aumento della possibilità di scelta per le persone con disabilità è sicuramente un fatto positivo. In generale aumentano le possibilità di accedere alla conoscenza. Certo. E questo è un risvolto, secondo me, estremamente importante per tante categorie di persone con disabilità. Pensiamo anche a chi ha difficoltà appunto nei movimenti, che ha può avere per esempio la possibilità di fare, non so, visite virtuali ai musei. Adesso con gli sviluppi legati alla realtà virtuale questo sembra ancora più... Sì, sì. Insomma, vivere esperienze anche immersive, diciamo, da questo punto di vista, senza muoversi da casa, fare cose che altrimenti magari avrebbe potuto fare ma con estrema difficoltà, oppure, so, assistere a convegni, partecipare a conferenze, guardare, cioè fare corsi online. Pensiamo a tutto il mondo dell'e-learning. Esatto. Quindi l'accesso, e poi c'è tutto il discorso degli ebook. Anche qui le persone non vedenti, ad esempio, sono state chiaramente le prime ad utilizzare libri in formato digitale, ed è stata una lotta, c'è stata una lotta terribile con gli editori, soprattutto in ambito scolastico, per avere la copia digitale di un testo cartaceo. Per poterla far leggere, per poterla software. Leggere tramite il software, sì, perché sì. Gli editori, si diceva, hanno la copia digitale, perché certo. Da quella poi deriva la stampa. Cioè, quindi, mica perché, scrivo una mano. Esatto. Perché non darla ai non vedenti? Ecco, c'è stata una lotta dura, alcuni editori sono stati più collaborativi, altri meno, si sono fatti dei protocolli d'intesa negli anni con le case editrici. Adesso chiaramente il fatto che tutti comincino pian piano ad utilizzare i libri in versione digitale, e che quindi quando si va a comprare il libro ci sia anche il CD, questo chiaramente ha un enorme vantaggio per gli alunni non vedenti, ad esempio. Esatto. Luca, grazie per essere venuto a trovarci nei nostri studi. Appunto, non ci diamo appuntamento quando ci sarà la macchina guida autonoma, okay. Un po' prima. Grazie, grazie mille. Page Fair e Priori Data hanno pubblicato un nuovo rapporto sull'uso degli ad blocker, cioè quei software o quelle applicazioni che bloccano i contenuti pubblicitari online. Allora, sono 620 milioni gli utenti in tutto il mondo che li usano, 420 milioni su mobile, su smartphone e tablet, ma prevalentemente su smartphone, e 200 milioni su PC, con una crescita pensata del 90% nell'ultimo anno. Il 93% degli utenti che usa Adblocker è nella regione Asia-Pacifico, e in particolare l'uso su smartphone, quindi in mobilità, è molto forte nei paesi emergenti, dove l'accesso al web è prevalentemente fatto in mobilità e dove i consumatori fanno più attenzione al risparmio di dati e anche alla velocità di caricamento delle pagine, che sono garantite dagli Adblocker, visto che hanno meno soldi degli occidentali e hanno connessioni più lente, e quindi sono molto più sensibili a questo. Però Page Fair e Priori Data hanno individuato 45 diversi browser con un sistema di blocco per le pubblicità disponibili sia per iOS che per Android. Pensate, 45 diversi browser. Molti di questi sono in Asia, quindi magari sconosciuti, anche perché sono magari in caratteri diversi dai nostri. Solo per iOS sono più di 200 le diverse app per bloccare contenuti pubblicitari. Incredibile. Uno dei fenomeni che si stanno vedendo soprattutto in Asia Pacifico è che i sistemi di ad blocking cominciano ad essere una scelta di base, cioè di default, su alcuni terminali. Asus, ad esempio, ha annunciato una partnership con Adblock Plus, che è uno degli ad blocker più famosi, che mette un ad blocker sul browser installato sui propri smartphone, così di default uno lo compra e ce l'ho già disponibile. Però sempre su questa scia ci sono anche operatori di telefonia mobile come Digicel, che è un operatore di telefonia mobile che opera in 33 nazioni nei Caraibi, Centro America e Asia, che a settembre dello scorso anno ha iniziato a bloccare la pubblicità sulle connessioni mobili dei propri utenti nei Caraibi. In questo modo le connessioni sono più veloci, più rapide, quindi i clienti sono più contenti. Però su questo c'è un po' di dibattito e di polemica, anche perché in, magari non nei Caraibi, ma in molti altri paesi ci si domanda: ma questo va contro la neutralità della rete? E io dico di sì, però vedremo se qualcuno... Allora, so che Tre ha fatto una sperimentazione del genere in Gran Bretagna, però siamo solo ad una fase di test. Nel rapporto fatto da Pagefair e Prioridata non viene stimato un danno per l'industria della pubblicità e per l'industria editoriale, ma possiamo fare un rapido calcolo, visto che la stessa Pagefair lo scorso anno aveva fatto un rapporto con Adobe stimando in 22 miliardi di dollari il valore della pubblicità non visualizzata a causa degli ad blocker. Quindi potremmo dire che siamo già saliti a 40 miliardi, fatti i conti della serva. Dunque, adesso parliamo di fibra ottica, un tema molto importante, ed è con noi, abbiamo il piacere di ospitare nei nostri studi Philippe Vanille, che è vicepresidente, vice president del business telecom del gruppo Prismian. Benvenuto a 2024. Grazie. Allora, diciamo subito che voi siete uno dei principali produttori di cavi e di fibra ottica, ma non solo di fibra ottica, nel mondo. Cosa fate? Siamo il leader mondiale dei cavi nel mondo. Per l'energia e anche per il telecom. Facciamo cavi ottici e cavi rame più tradizionali, vendiamo sistemi passivi di connessione. Di connettività. Senta, quando si parla di fibra ottica, stiamo parlando di cose, non so quanti italiani abbiano visto la fibra ottica, stiamo parlando di cose piccolissime, una fibra è molto molto piccola, in realtà il cavo è una somma di fibre, è una serie di fibre messe assieme. Come è fatta questa fibra? Allora, una fibra è un tubo di vetro, un filo di vetro di 250 microns. Che è come un capello. Un capello. C'è l'interno è fatto di vetro e attorno c'è una protezione di plastica. E all'interno di questo vetro viaggia un fascio laser che trasporta il segnale. Sì, che trasporta internet. Trasporta internet, la voce. Più veloce video, della fibra ottica, che cosa c'è? Niente. Perché non c'è niente di più veloce della luce nel mondo. Sì. Senta, come si fa ad innovare un prodotto come la fibra ottica? Cioè, ormai quello è. Si può migliorarla in tanti modi, migliorando la qualità del vetro, delle materiali che usiamo per farla, anche migliorando la sua capacità ad andare un po' dappertutto. Voglio dire che una fibra per definizione sarà abbastanza sensibile alle aggressioni esterne. Voglio dire che se viene messa sotto pressioni, per esempio, perde la sua capacità a trasmettere il segnale. Quindi lavoriamo sempre di più sul fare delle fibre robuste che possono essere usate all'interno di cavi sempre più piccoli, sempre più compatti, che sono sempre più facili da installare. Senta, visto che la fibra ottica ha una vita, se non infinita, di decine, forse centinaia, magari non abbiamo nemmeno l'esperienza, perché... No. 100 anni fa non si faceva la fibra ottica. È stata inventata 40 anni fa. Esatto. Da un certo punto di vista fate un prodotto che si sostituisce difficilmente. Diciamo, quando il mondo sarà pieno di fibra ottica dovrete inventarvi un nuovo business, o esagero? No, è probabilmente vero, però ci vorrà un po' di tempo per metterne dappertutto. Oggi il mercato mondiale è un mercato di 350 milioni di chilometri fibra installati nel mondo ogni anno. E c'è ancora molto da fare, un mercato che cresce dal 5 al 10% ogni anno, quindi quindi nel mondo, se noi prendiamo il mondo come punto di riferimento, si installa sempre più fibra ottica, ad oggi. Certo. E i paesi, visto che in Italia, allora, sicuramente un pochettino si continua ad installare, ci sono alcuni progetti, però questo grandissimo progetto di cui si parla molto, soprattutto la parte finanziata da fondi statali, che sono poi per la maggior parte fondi europei, deve ancora partire, quindi siamo ancora in attesa da questo punto di vista. Gli altri paesi, quali sono i paesi più interessanti nel mondo? In termini di volume, sicuramente la Cina. Perché è grande. Perché è grande, sì. Rappresenta un paese che rappresenta il 60% del mercato mondiale. Poi ci sono gli Stati Uniti, che sono partiti abbastanza forte, e l'Australia, molto più piccola in termini di popolazione, ma che è veramente, veramente partita anche forte sulla fibra. Poi in Europa, direi il paese che usa più fibre adesso è la Francia, con un mercato di circa di più di 7 milioni all'anno. Di chilometri fibra installati ogni anno, mentre l'Italia sarà piuttosto verso 3-4 milioni quest'anno. Quindi con i progetti che partiranno. La fibra ottica è tutto uguale? No. Ci sono fibre di alta qualità e fibre di qualità molto più bassa. Ci sono fibre che sono capaci di resistere a più pressione all'interno del cavo, quindi che sono meno a rischio quando installiamo il cavo, quando deve rimanere 20 anni allo stesso posto, c'è per strada, ci sono sempre i rischi. E poi, quindi mi sta dicendo che quando io mi collego ad internet dal mio computer all'ufficio o a casa, in base alla scelta che l'operatore di telecomunicazione ha fatto, la mia navigazione sarà più o meno buona. Sì, perché dobbiamo fare la distinzione tra velocità, la velocità che compriamo nel nostro contratto Telecom, 30 megabit, 100 megabit per i più fortunati. Per i più fortunati, esatto, perché ci stanno ascoltando persone che hanno ancora 2 megabit, certo. 5, 7. Certo. Fare la distinzione tra questa velocità teorica che compriamo e la velocità reale che abbiamo. Perché la velocità reale che i specialisti chiamano throughput, sì, è in realtà il 50%, il 60% della velocità che abbiamo. Sì. E questo dipende molto dalla qualità dei cavi e delle fibre che sono stati installati. Certo, anche da altri elementi, ci sono i router, tutta l'infrastruttura. Servers, cioè, routers, eccetera, eccetera. Però la fibra ottica anche lei incide. La fibra ottica incide per la sua capacità a resistere alla pressione, alla piegatura. Quando si costruisce l'infrastruttura, le curve le che deve curve fare sono un rischio, le connessioni sono un rischio, quindi più robusto la fibra è, sì, più basso è il rischio. Sì. Allora, una cosa che non abbiamo detto, ma la diciamo perché è importante, che voi producete una buona parte delle fibre in Italia. Sì, noi difatti non siamo l'unico produttore di fibra in Italia, anche in Europa. Ci sono tre tecnologie nel mondo per fare la fibra, una è americana, l'altra è giapponese e la terza è quella nostra. Viene dal consolidamento del mercato europeo, la Prysmian adesso è proprietaria delle tecnologie di Nokia, di Alcatel, di Philips, che sono tutte adesso in Prysmian. E poi abbiamo anche gli stabilimenti. Uno stabilimento nostro è a Battipaglia, provincia di Salerno, dove facciamo 9 milioni di chilometri ogni anno. Diciamo che i futuri auspicati 3-4 milioni che verranno messi in posa in Italia vengono tutti fatti in Italia, made in Italy? No, ah, questo tutti. Non è detto, perché c'è un mercato, c'è un mercato, ci sono da fare, eccetera, cioè, eccetera. Noi ne facciamo 9 in Italia, ne esportiamo la maggior parte oggi. Sì. Adesso introduco un elemento che è importante e interessante. Ad un certo punto Prysmian ha comunicato al mercato di aver prodotto un cavo ibrido, sì, che mette a frutto le vostre conoscenze nel mondo della fibra ottica e nel mondo dell'energia. E quindi uno dice, ma se c'è un cavo che all'interno ha due cavi in realtà, all'interno quello che porta la fibra ottica e quello che porta l'energia elettrica, è perfetto per un operatore di energia elettrica come ad esempio Enel, ma ogni riferimento è puramente casuale, che vuole anche fare un'infrastruttura in fibra ottica. Difatti è un cavo che abbiamo sviluppato proprio per questo. Ma anche in questo caso però le faccio una domanda: sembra una banalità, perché uno dice, beh, prendo il cavo dell'energia elettrica di rame e il cavo dove c'è la fibra ottica, li metto assieme all'interno di una un'unica porzione di cavo e il gioco è fatto. Sembra facile, infatti, sì. Ma ci sono 130 anni di esperienza dietro queste tecnologie, ci sono brevetti, c'è un know-how e ci vuole veramente tanto know-how per essere capaci di sviluppare un prodotto come quello. L'abbiamo fatto e pronto per aiutare il mercato. Per adesso non lo usa quasi nessuno? Poco. Perché ci vuole un operatore di telecomunicazioni che faccia anche energia. Una cosa abbastanza rara nel mondo, c'è un esempio in Irlanda, un altro in Israele e adesso sta partendo l'Italia con l'Enel. È una cosa intelligente perché l'energia elettrica non interferisce la fibra ottica. Infatti, no. No, la fibra è completamente immune a qualsiasi interferenza. Quindi il progetto è perfetto. Il progetto è perfetto almeno in certe zone dove è ovvio che sarà a costo più basso rispetto ad un'architettura tradizionale. Sappiamo bene che l'Enel sta facendo delle prove, vediamo a che costo arrivano. Senta, la fibra ottica costa sempre meno? Sì. La fibra ottica è un prodotto ancora giovane, che ha 40 anni di esistenza e quindi c'è ancora molto da fare per migliorare il costo, ci stiamo lavorando permanentemente, non siamo da soli ovviamente, abbiamo anche concorrenti. Ma ecco, costa meno perché ci sono i cinesi o costa meno perché i processi produttivi sono sempre più robotizzati? Entrambi. Perché i cinesi ovviamente hanno una manodopera meno cara e fanno volumi importanti, ma noi a Battipaglia siamo stati capaci di, dopo un investimento importante, circa 30 milioni negli ultimi 2 anni, a migliorare il processo, a migliorare questo processo per farne un processo veramente competitivo sul mercato. Quindi rimane un prodotto molto tecnico, dove c'è ancora molto da fare per migliorare i processi. Allora, lei sicuramente ha tutto l'interesse a dire che la fibra ottica è il sistema, come si dice, future proof, però mi dia una spiegazione, una giustificazione dell'importanza di fare un'infrastruttura in fibra ottica e non basata su altre tecnologie, sia radio, sia sfruttando ancora il rame che ormai non è più, perché è giusto fare una infrastruttura in fibra ottica che arrivi nelle case di ogni cittadino, nelle aziende, negli uffici, nella pubblica amministrazione? Oggi non ne abbiamo necessariamente un bisogno assoluto, ma fra 2, 3, 5 anni, 20 megabit che abbiamo oggi con rame non sarà più sufficiente, perché consumiamo sempre di più dati, perché c'è la 4K, la video 4K che sta arrivando e la vogliamo tutti. Poi perché nello scambio di dati solo il download non basterà più, ci sarà anche l'upload e questo il rame lo fa con una grandissima fatica. Quindi c'è anche l'Internet of Things, il famoso scambio di dati tra oggetti sì, macchine, sì. Che consumerà molto. Quindi non c'è dubbio e siamo tutti d'accordo. Di sicuro la soluzione alla fine sarà fibra dappertutto, in ogni casa, ma c'è un tema di progressività dell'investimento. È l'unico tema. Certo, che comunque deve essere programmato. Ma di questa cosa sono convinti i governi, secondo lei? Dipende dai governi. Quello italiano? Quello italiano mi pare abbastanza convinto, sì, della necessità di andare direttamente verso la fibra. Giapponesi e coreani sono i primi ad averlo capito. Ah, per loro fa parte del passato. Incredibile. Bene, io la ringrazio per essere stato con noi. A presto e buon lavoro. È stato un piacere, grazie. Chiudiamo così questa puntata di 2024. La prossima settimana saremo in diretta dalla Parco del Valentino a Torino per il Salone dell'Automobile di Torino. Parleremo anche di automobili, magari non solo di automobili. Io sono Enrico Pagliarini, come sempre grazie per la vostra attenzione, grazie per aver ascoltato 2024 in questa versione podcast. Ringrazio anche tutti coloro che ci scrivono e che aggiornano la nostra classifica su come ascoltate 2024. Devo dire che nelle ultime settimane sono in forte ascesa quelli che ci ascoltano mentre fanno le pulizie in casa, di vario genere, da lavare i piatti a fare proprio le pulizie generali, magari nel fine settimana. Forse perché tutti quelli che corrono costantemente mi hanno già scritto e quindi mi hanno già comunicato che ascoltano 2024 mentre corrono, che comunque rimane forse la comunità più popolata tra gli ascoltatori di 2024. Bene, ci risentiamo la prossima settimana.